in primo piano. Per qualcuno addirittura l'apertura, ma l'altro grande tema, che è l'apertura seconda e dalla quale voglio partire, è quello sull'attacco alla mafia. Ieri il Consiglio dei Ministri si è svolto, come avete sentito, a Reggio Calabria per la prima volta. Doppio attacco alla mafia, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Confindustria, chi paga il pizzo è fuori dall'associazione. Un piano contro la mafia, così apre il Corriere della Sera. Arriva il piano antimafia per il Messaggero. Ecco invece i giornali che appunto hanno deciso di puntare questa frase sull'immigrazione. La Repubblica, Berlusconi contro gli immigrati, i reati aumentano per colpa loro. Berlusconi, meno crimini riducendo gli immigrati. Questo è il titolo d'apertura della Stampa. Per il Fatto Quotidiano, li hanno ridotti così. C'è la foto di un immigrato molto sanguinante dal volto, uno degli extracomunitari aggrediti a Rosarno, ma Berlusconi dice meno immigrati, meno criminalità. Ecco allora che si è puntata questa frase: meno immigrati, meno irregolarità. Ma insomma c'è questo giallo sull'interpretazione. Intanto partiamo dalla cosa sicura: il governo vara il piano antimafia, lo leggo dal Sole 24 Ore. C'è il decalogo contro le attività dei clan, nasce l'agenzia dei beni confiscati che avrà sede proprio a Reggio Calabria. C'è il codice unico antimafia, l'estensione a tutto il territorio nazionale del patrimoni dei mafiosi, diciamo del desk interforze per contrastare i patrimoni mafiosi, la vigilanza sugli appalti, lotta al lavoro nero, insomma alcuni punti del decalogo contro la mafia, proprio nel giorno in cui il presidente di Confindustria Marcegaglia ha ribadito e ha detto chi paga il pizzo è fuori. Lo leggiamo a pagina 7 del Sole 24 Ore. Saranno sospese o espulse le imprese che violano l'obbligo anti-estorsione. Quindi, scrive Nicoletta Picchio, l'obbligo di denuncia per gli imprenditori che subiscono un'estorsione pena l'espulsione. Chi aveva già lanciato questa esperienza pilota è stata Confindustria Sicilia, con il suo presidente Ivan Lobello, che oggi infatti è intervistato da Antonella Baccaro sul Corriere della Sera, e dice Lobello: in Sicilia ha funzionato, più aziende si rivolgono allo Stato. Sono contento per l'estensione della delibera a tutto il Sud, ma anche associazioni del Nord come Assolombarda, dice Lobello. Non ho dati contabili su come sia andata in Sicilia, perché le sospensioni vengono deliberate dalle associazioni territoriali. So che ce ne sono state a Palermo, Caltanissetta e Agrigento. E riguardo all'aria che tira in Sicilia su questo fronte, sono molto aumentate le denunce, dice Lobello, in tutti i settori di attività. Direi che c'è un mutamento della percezione sociale del fenomeno mafioso. Si comincia a capire che non è solo un problema dello Stato. Dunque questo sul fronte della lotta alla mafia, mentre l'altro tema, che è il tema del nostro sondaggio, come detto, è quello della frase di Berlusconi riferita agli extracomunitari. Allora, vedete, il Corriere mette così: lotta ai boss in 10 punti, lite sui clandestini, quindi parla di clandestini. Poi la sentiremo la frase esatta di Berlusconi, l'abbiamo sentita anche in CR24, ve la riproporremo. Il giornale, vedete, la mette così: Berlusconi, meno clandestini, meno crimini. E tra l'altro c'è un articolo di Paolo Granzotto molto polemico, dice: il tic degli anti Silvio, falsarne le parole. Perché Berlusconi ha parlato di extracomunitari ma riferito agli sbarchi clandestini, e dunque, dice, l'opposizione ha tolto la parola, ha agitato solo la parola extracomunitari, esibendosi nel trito e macchiettistico attacco al Cavaliere. Ma insomma il tema è questo, è interessante. Per esempio Libero, che certo non è un giornale che può essere accusato di essere antigovernativo, scrive così: il Cavaliere ha i numeri, meno stranieri, meno reati. Addirittura proprio meno stranieri, neanche meno immigrati o meno extracomunitari, meno stranieri, meno reati. E dice, scrive Libero: il PD perde la testa, insulta il Premier. C'è anche questa battuta fatta da Anna Finocchiaro, che ha risposto così: meno Premier, meno crimini. Poi peraltro Anna Finocchiaro si è scusata, dice la battuta è stata effettivamente infelice, ma anche l'associazione Immigrati Criminalità. O, per esempio, parla molto in vari, su vari giornali il sociologo Marzio Barbagli, che è unanimemente riconosciuto come uno dei massimi studiosi del fenomeno migratorio, insegna sociologia a Bologna, è autore di molti libri, saggi sul tema immigrazione e sicurezza. È anche un personaggio che in passato, in recente passato, ho detto io da uomo di sinistra, in passato facevo fatica ad accettare alcuni dati, poi li ho elaborati anche dentro di me e ho capito che insomma un certo legame tra immigrazione e criminalità c'è. Però oggi sul Corriere della Sera Barbagli dice questo, ho detto, eccolo lì, partiamo proprio dall'inghippo di questa frase. Ha detto Berlusconi che avere meno extracomunitari significa meno forze che vanno a ingrossare la criminalità. È una frase senza senso, dal contesto intuisco che intendesse dire clandestini. In tal caso c'è una parte di vero, a patto però che capiamo bene che clandestini vuol dire qualcuno che è entrato senza averne diritto e non chi magari ha un permesso scaduto come capita alle badanti. Però poi Barbagli dice il pacchetto sicurezza ha fallito, lo dicono i dati. Per esempio, quelli sulla percentuale degli stranieri che commettono reati rispetto al totale delle persone denunciate. Solo alcuni reati sono più frequenti in quella frazione di immigrati irregolari che delinque, piuttosto che gli italiani. Alcuni tipi di reato, non certo la corruzione, l'insider trading, che sono reati tipici dei potenti. Allora, quali sono i reati particolarmente commessi dagli immigrati e dai clandestini? Solo il 5% di rapinatori di banche sono immigrati, mentre lo sono il 68% dei borseggiatori, ma il reato più tipico dei clandestini è lo spaccio e il traffico di droga. Per il 92-94% è compiuto da immigrati entrati senza permesso, proprio quelli che il governo voleva colpire e, dice Barbagli, ecco i dati dell'insuccesso. Non è riuscito a colpire, infatti la percentuale degli immigrati denunciati per droga non è diminuita, anzi nel 2009, anno in cui è stato introdotto il reato di clandestinità, è la più alta mai registrata. Nel 2009 il 34,2% contro il 32,4% dell'anno precedente. Dunque il dibattito è aperto. Barbagli, anche riformista, dice c'è del vero nella frase di Berlusconi, ma col reato di clandestinità va ancora peggio, i dati che vi ho citato. Per il manifesto è addirittura la prima pagina con Berlusconi fotografato con Marroni e il titolo di prima pagina è Premier di razza, meno extracomunitari, meno criminali. Ecco, il manifesto almeno ha il pregio di mettere la frase virgolettata, è esattamente questo che ha detto nel contesto che vedremo. Oh, lasciamo la politica, ancora si interroga per le candidature, la vicenda di Bologna è una vicenda che davvero continua perché intanto Flavio Del Bono alla fine si è dimesso, ci sono varie interviste, c'è anche Lucio Dalla sul Corriere della Sera, il grande cantante bolognese che fa un invito, qui ci vuole Prodi, questa è una città depressa, Prodi pensaci tu. Prodi ha già fatto sapere che non si candiderà assolutamente a sindaco e neanche la moglie di Prodi, perché attenzione, questo è il nuovo filone, Flavia Prodi, l'economista Flavia Prodi, sia sul Corriere che su Repubblica c'è una conversazione con lei, Flavia Prodi si tira fuori, amarezza per il sindaco ma è impensabile candidarmi, non farò il sindaco di Bologna, è l'unica risposta secca che mi sento di dare, conosco da 20 anni Del Bono ma assolutamente no. L'altra vicenda politica la devo trattare prendendo in mano un settimanale che esce oggi, vale a dire Panorama. Lo abbiamo sentito anche nel GR, in Panorama, la prima pagina di Panorama c'è la foto di Patrizia Daddario, vale a dire la escort diventata più famosa d'Italia, colei che ha detto ho passato le notti a Palazzo Grazioli con il premier Silvio Berlusconi. Perché il titolo è Il complotto, prima parte. È un'inchiesta di Panorama esclusivo, infatti Panorama rivela il piano organizzato a tavolino per mettere alle corde Silvio Berlusconi. Cioè, secondo Panorama, la vicenda che ha portato Patrizia Daddario a passare un paio di notti, credo due, se ricordo bene, a Palazzo Grazioli con il premier è frutto di un complotto ordito da chi? Da alcuni giornalisti, da alcuni pare magistrati, da alcuni uomini delle forze dell'ordine. L'obiettivo: fare soldi e screditare il premier. Ci sarebbe anche un'inchiesta a Bari in corso al riguardo, anche se la procura di Bari ha smentito. Ad attirare l'attenzione degli inquirenti sono stati alcuni movimenti di denaro di entità rilevante registrati prima e dopo che lo scandalo alimentato dalla escort è finito sui giornali. Si parla di 1,5 milioni di euro che sarebbero stati movimentati, tanto che Libero titola così. In prima pagina c'è la foto di Patrizia D'Addario col titolo "Sputtanata, le prove del complotto". C'è da dire che Maurizio Belpietro dice: noi l'avevamo detto, io lo sem- vabbè, adesso qua lo si dà per accertato, poi bisognerà vedere, ma insomma Belpietro dice: la storia della prostituta finita casualmente nel letto di Berlusconi, che di Berlusconi poi si vendica sputtanandolo invece di spillargli quattrino, apparizione in TV, a noi è sempre apparsa strana. Tanto che, dice Belpietro, quando andammo in TV ad Anno Zero, io chiesi insistentemente a Patrizia D'Addario come vivesse, come riuscisse ad andare avanti, e dice Belpietro, senza ottenere risposta. Libero ci dedica le prime, credo, 6-7 pagine, addirittura 7 pagine, con testimonianze di chi dice: lo sapevamo, è così, Patrizia D'Addario è solo un'esca, è una burattina manovrata da un burattinaio. Sul Corriere della Sera, panorama, inchiesta sul caso D'Addario, complotto anti-premier. Vedremo se ci saranno sviluppi al riguardo. Passiamo alla cronaca. La cronaca la vorrei aprire con quello che sta succedendo a Ischia. Tra l'altro se ne occuperà Oscar Giannino alle 9. Ve lo voglio annunciare. Che cosa sta succedendo? Che la popolazione di Ischia, gran parte, un po' di abitanti della popolazione, è in piazza perché vuole difendere le proprie case, che sono case abusive. Vanno distrutte, secondo la legge, ma sono anche le prime case. Il centro della protesta è Casa Micciola, e soprattutto ieri si è riuscito, credo, ad abbattere la casa di Luigi Impagliazzo, proprietario della casa abusiva. La Stampa racconta molto bene, a pagina 4 e 5, questa vicenda, piccola se si vuole, ma emblematica dell'Italia, dove l'abusivismo purtroppo è una triste realtà. E mette a confronto, nell'articolo di Antonio Salvati, i due protagonisti: Aldo De Chiara, procuratore aggiunto di Napoli, inflessibile, che dice: questo scempio deve finire, anche se è la prima casa, io devo farla abbattere perché la legge è la legge. E Luigi Impagliazzo, il proprietario della casa abusiva, colui che dice: è la mia prima casa, ho presentato un condono per la struttura dell'87, pensavo abbattessero solo la tettoia condonata nel 2003, che devo fare? Dovrò pagare le spese di demolizione, non ho lavoro, non ho nemmeno una casa, dove prendo i soldi? E il procuratore, inflessibile, in quasi un articolo molto bello costruito, chiaramente a due interviste, ma quasi se fosse un dialogo tra i due, tra la legalità da una parte e, come dire, non dico l'illegalità, ma la disperazione anche dall'altra, dire: se la sono presi con me, ma ci sono abusivismi in tutta Italia, questa è la mia casa, io sono due locali, capisco che è abusiva, ma che devo fare adesso? Cioè, dove vado a vivere? Insomma, è un tema molto interessante, anche due prospettive molto interessanti, senza facili qualunquismi. Ne parlerà, come al solito, Oscar Giannino alle 9 di quello che sta avvenendo a Ischia e dell'abusivismo italiano. In primo piano. A Milano domenica antismog. Sappiamo e avete sentito che a Milano, dove c'è l'inquinamento da diversi giorni, si sforano i limiti, le auto saranno fermate per 8 ore domenica. Ci sono già le polemiche, le trovate un po' su tutti i giornali. Serve o non serve? Serve a tanto o serve a poco? Serve a molto o serve a nulla? Il ministro dei trasporti Matteoli, per esempio, sul Corriere della Sera è molto chiaro: a Milano domenica tutti a piedi, già, e lunedì, risponde, l'inquinamento sarà quello di sabato. Provvedimento inutile, assolutamente inutile. Per risolvere il problema ci vogliono piani strutturali. Ma allora la Moratti, cioè il sindaco, sbaglia? No, fa bene, dice Matteoli. Il problema è molto semplice. Se c'è una norma europea che dice: se per più di tot giorni l'anno si superano i limiti massimi di PM10 nell'aria, il sindaco ha l'obbligo di fare qualcosa per rimediare. Se non lo fa, quindi fa bene, perché la magistratura ti apre un procedimento contro, ma dice non serve a nulla. La proposta invece del ministro Prestigiacomo sul abbassare il riscaldamento delle case, dice già questo servirebbe a bruciare meno carburante. Il Sole 24 Ore ci fa sapere che l'area peggiore d'Italia comunque non è a Milano ma è a Siracusa e poi a Massa. Siracusa, la città più inquinata del 2008, seconda Massa, poi Torino, Napoli, Lucca, Frosinone, Ravenna, Venezia, Modena e poi Milano, che però ha deciso la chiusura, lo stop del traffico. Oh, questa è una storia drammatica che però trovate sui giornali. Io la voglio citare perché tra l'altro la persona protagonista, le persone protagoniste sono le persone che io ho avuto l'occasione di invitare in una trasmissione quando conduceva Le 9. È la vicenda di Salvatore Crisafulli con il fratello Pietro Crisafulli e Salvatore. Salvatore ha avuto la sfortuna di avere un incidente automobilistico, è rimasto in stato vegetativo persistente, poi è uscito da questo stato vegetativo persistente, è in una situazione di difficoltà in cui ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. L'anno scorso, quando ci fu la vicenda di Eluana Englaro, Pietro Crisafulli disse caro papà Beppino Englaro, fermati, non procedere insomma con le volontà di tua figlia Eluana. Ora invece sentite cosa dice Pietro Crisafulli: sono stato abbandonato da tutti, porto mio fratello a morire in Belgio, siamo stati traditi da tutti, non possiamo più aiutarlo, è ormai una scelta obbligata, lo hanno abbandonato al suo destino. Da 7 anni aspettiamo inutilmente un piano personalizzato di assistenza ospedaliera, ora andremo in Belgio, paese più civile di noi, per praticare l'eutanasia. Lo troviamo su Repubblica ma anche sulla Stampa: in viaggio verso la dolce morte, i parenti del paraplegico siciliano, lui è d'accordo, lo porteremo in Belgio, faremo l'eutanasia, c'è già una struttura pronta per l'iniezione, ci lascerà nel sonno e tra l'altro lo faremo proprio nel giorno della morte di Eluana Englaro, 9 febbraio, a un anno esatto dalla morte di Eluana. Chissà se è un grido di disperazione per attirare, insomma, con questo estremo urlo di dolore l'attenzione di quelle autorità che dicono i familiari di Salvatore Crisafulli ci hanno abbandonato. Staremo a vedere, speriamo, qualche reazione. Voglio tornare sul Corriere della Sera per una vicenda che vede ancora in risalto Alberto Stasi, assolto, come sapete, dall'accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi. Il problema è che andrà nuovamente a processo, questa volta una cosa davvero meno seria. Non ha pagato la parcella dei primi avvocati. 81.000 euro per i primi 30 giorni di lavoro. Accidenti però, 81.000 euro. Devono aver fatto un lavoro coi fiocchi questi avvocati, e infatti il motivo per cui non è stata pagata la parcella è che secondo la famiglia di Alberto Stasi non rientrano queste parcelle nell'applicazione delle tariffe dell'ordine. Se questo ha detto l'attuale legale difensore di Alberto Stasi, in ogni caso dovrà andare a processo perché i primi legali vogliono questi 81.000 euro. Trovate moltissimo, come abbiamo sentito anche nel GR, sulla figura di Jerome David Salinger, l'autore del Giovane Holden, morto ieri a 91 anni, una vita tra l'altro negli ultimi anni davvero ermetica, chiusa. Da anni si era ritirato nel New Hampshire, non parlava con nessuno, non riceveva i giornalisti, anzi li riceveva spesso a schioppettate e con minacce di fucile in braccio, non voleva parlare con nessuno, solo 2 interventi per cercare di bloccare alcune cause chi voleva pubblicare alcune cose su di lui, l'autore del Giovane Holden soprattutto. Oggi Giovanna Mancini ne fa un bellissimo ritratto a pagina 16 del Sole 24 Ore. E proprio col Sole 24 Ore voglio chiudere con una segnalazione, perché da oggi trovate in edicola il mensile 24, che è alla decima edizione celebra il 10° anniversario e che ha deciso con il suo direttore Fernanda Roggero di riflettere, insomma, sulle 10 grandi sfide che impongono e che vengono imposte in questo nuovo millennio. La prima sfida è quella del corpo, usi e abusi del corpo. Questo è il numero monografico che trovate in edicola a partire da oggi. Vale a dire, insomma, il corpo in tutte le sue accezioni, come rappresentazione, come immagine, il corpo in tutte le sue forme. Questo è il protagonista di 24 che trovate in edicola col Sole 24 Ore. Ebbene, ci fermiamo qua, votate il sondaggio. Allora, parliamo di immigrazione, della frase di Berlusconi: meno extracomunitari, meno reati, meno criminalità, che voleva dire forse meno clandestini, voleva dire meno immigrati. Il PD, l'opposizione, si è molto adombrata. Che ne pensate? Siete d'accordo con questa frase di Berlusconi? Ne parleremo alle 8:30. Ora è il momento di GR24.